Ecco, quindi un radiale anche full size, un quarto d'onda, i radiali belli, radialoni, ecco. L'unica cosa è che sono pesanti, quindi magari non tutti. Io per esempio non volevo antenna pesante, vabbè, l'ho sempre detto, che devo tirantare cose, no. Il paletto da 3,70, poi se vogliamo è anche più basso, e niente radiali. Spunta dal gabbiotto di soli 2 metri, il mio palo, l'antenna dal gabbiottino, quello gabbiottino dai che spunta sul terrazzo, solo 2 metri in più di palo ci sono e boh. Io già la vedo l'antenna quando passo, la vedo. Guarda, si vede da via Luna Sole, angolo via Pronicella, poi si vede se vai dietro quell'edicola che c'è in via Luna Sole, no? E sbirci in quella specie di discesa parallela a via Luna Sole, si vede, sì. Poi forse ti avevo anche mandato le foto della, per quanto sfocate, no? Ti avevo mandato le foto di come appare. Però vedo che sta andando, per adesso tocchiamo ferro, vabbè, 8 anni, vai così. E io la mia amante l'ho avuta montata 12 anni, poi l'ho scesa, l'ho pulita, l'ho rimessa sopra, abbiamo messo tutti i radiali nuovi, fatti su misura, li ho messi addirittura anche quei pilolini che c'hanno in punta, li ho comprati da Bricco, li ho fatti tutta bene, e addirittura con la colla a callo li abbiamo attaccati in punta. E poi me ne ha troncati la cornacchia. Adesso mi è il periodo che è pieno di cornacchie vicino a casa perché c'hanno il nido. Cosa succede? Quando c'è vento li butta giù il nido, ce n'è qualcuna che muore, quelle che vivono non ti fanno avvicinare le cornacchie, diventano ben cattivi e cominciano la mattina a peso, mamma mia, guarda, non ti fanno dormire, dalle 6 di mattina sono così. Sì, sono casiniste le cornacchie, sono casiniste. Poi lì avete ancora più verde, in quella zona lì, zona Badimanna, la Pinetta, c'è ancora più verde là rispetto a qua, quindi ci saranno molti più pigioni, ecco perché ti piegavano i radiali, capito? Perché lì c'è un passaggio notevole di volatili. Bene, riprendi il profeta, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. No Marco, ti spiego. Lì c'è una donna che mette da mangiare i gatti e le cornacchie scendono a mangiare quella roba dei gatti, gliela fregano e poi se ne volano sopra il tetto, capito? E vanno sulle antenne. E così è. Che succede? Vanno sulle macchine, vanno, io tante volte ho trovato le zampate, si mettono sopra la cappotta della macchina, le zampate delle cornacchie. E per non parlare della pupù della pupù, chiamiamola pupù, tra cornacchie e gabbiani. Sì, mamma mia, già sono massate quelle sono. Ma io tempo fa avevo visto una macchina, vi ricordate quel periodo anche di quegli uccelli migratori che c'erano tutte le macchine, però in più questa era fatta anche di cacca di gabbiano, ma questa macchina era ricoperta, non dico parole mie, ricoperta di merda, uno schifo, mai vista ridotta, probabilmente l'hanno lasciata ferma un po', ma era una cosa schifosa a vedersi. Basta che parcheggi col suo vico, gli stornelli te la fanno così, col suo vico quegli alberi che ci sono tutti più di stornelli. Ce n'era una tempo fa, adesso non mi ricordo se era un appunto o roba del genere, qua nel viale. Cazzo, non si vedeva il colore della vernice. Sì, perché lì è pieno. Io mi ricordo che quando eravamo ragazzini, andavamo a volti da lastica a pigliare, e quindi una trafica te ne la fai 4 in pari. C'è molto spazio qua, poi cioè, tutti gli alberi tipo via Mendola, i giardini, insomma, tutta, loro si spostano lì, dove trovano alberi si fermano. Vabbè, quest'autunno li vedremo tornare, dai. Allora, se tu vai a Sorso di Bidriassi, la strada che porta, per intenderci, verso Porto Torres, dove c'è Monterraso lì, alle 5 di sera vedi uno spettacolo che ti fa incantare, sembrano dei fumi, li vedi danzando a migliaia, e mi ha spiegato un cacciatore che è il falco che li segue e loro cercano di scappare. Sì, li ho visti da molto vicino quando ero lì in campagna nella Nurra d'autunno e li vedevo, cioè, a brevissima distanza, sono spettacolari, va. Le forme sinuose che producono sono allucinanti. Sembra fumo, sembra, io non capivo, una volta mi sono fermato con la macchina, sono rimasto incantato, ma credi, mi sono sceso dalla macchina a guardarmi. Fanno delle belle evoluzioni. Oh, yeah. E vabbè. E quindi cosa deliberiamo, Marco? Allora, io come sempre, io declino ogni responsabilità. Mi astengo. Marco, ma a votare è andato? A votare? No, io non vado più a votare, ma da mo. Anzi, vorrei fare quell'azione lì di stracciare in sede elettorale il certificato elettorale, in cosa di protesta. Oh, yeah. Ma bisogna fare il dovere di cittadino a votare. Dovere del cittadino, ma sai quanti questi scalda poltrona del governo, sai quanti doveri dovrebbero avere nei nostri confronti? E mi sa che ci pigliano per il culo tutti, destre, sinistre, centri, 5 Stelle, spinellomani, panellomani, tutti. Ecco comani. È ancora una mia risposta, però, a parte il declinare la cosa. Quindi, qual è la delibera? Qua già, io direi, se proprio volessi provare a cambiare e spendere poco, vai di 5/8, tanto i radiali sono talmente minuscoli, cioè sono radiali non radiali quelli, proprio, almeno credo che un minimo di incremento si dovrebbe notare, anche minimo. Poi vabbè, la resistenza meccanica chissà com'è, la resistenza all'acqua chissà com'è, però se uno fa un lavoro certosino all'inizio si evita molte rogne dopo. Poi quanto dura già. Vabbè, dai, comunque in sostanza è un'ora di fatto. Beh, se proprio però devi cambiare dal quarto d'onda, io direi 5/8. Cioè, è inutile mettere mezze misure che guadagni uguale al quarto d'onda, no? Alla fine. Però vedi, guadagni, io sono sicuro che se uno mettesse il confronto con la tua, no? Sul tuo palo mettesse una Veno mezz'onda, mettesse una Grazioli mezz'onda, con la Grazioli l'incremento lo vedresti e come, anche se solo di 2 decibel. Oia, Sant'Antonio mio. Boh, sono un po' più che avere delle citazioni, il fumo qua aumenta, sono confusa. Allora tu, quando sei indeciso, valuta il fattore economico. Quanto c'ho in tasca? Tot voglio spendere, così ho fatto io, Oh, doppio room, senza contare che con queste Venom similari, Venom ufficialmente, hanno fatto un macello, perché prima c'era la mezz'onda pura senza radiali e la 5/8 con i radialini. Adesso hanno fatto mezz'onda con radialini, oppure 5/8 senza radialini. Non ho capito il senso, però le hanno fatte. Le hanno marcate con antenne, che le antenne ha chiuso anni fa. Quindi hanno fatto un casino già. Vai, doppio rumbo. Sì, per avere un'innovazione l'hanno fatto sicuramente, per attirare la vendita. Ognuno ha la sua scelta, ognuno le sceglie come gli fanno più comodo. Comunque, guarda che Franco non arriva male, arriva bene a tutte le parti. Sì, praticamente per il prezzo, dico, magari vale la candela, ecco. Anche, vedi, anche il profeta lì è abbastanza aperto, problemi non ne ha, lui già così col quarto d'onda può fare già faville, basterebbe magari qualche watt in più in propagazione e si divertirebbe parecchio. Poi le confezioni anche di queste antenne sono diventate le più strane, confezione rossa, la scatola rossa, la confezione grigia, la confezione nera, addirittura ci sono delle confezioni una scatola in cartone anonimissima senza alcuna scritta, ci mettono solo l'adesivo e antenne e delle spiegazioni sommarie, e non c'è scritto nemmeno Venom, capito? Nemmeno Venom c'è scritto. Ma non si fa risparmio, vanno. Anche la stampa risparmia. E vabbè, l'interessante è che quello che c'è dentro vada bene. Ma sino adesso Franco non si è lamentato, ha sapendo che gli è andata bene, e addirittura era contento perché l'ha messa sul davanzale e gli dava 1-1 di stazionari. E poi quello che c'è di bello è che con l'antenna tu la puoi montare giù e portartela già montata su, quindi la puoi poi lavorarci bene, non essendo sul tetto con aria questo e quell'altro, invece lì ci puoi lavorare bene da giù, te la isoli tutta quanta bene e poi la piazza. Profeta, messaggio. Aspetta che prendo lo scocciofano. Aspetta che metto lo squelcio appena. Ecco qua, tanto levare il soffio. E quindi vabbè. Sì, la cosa della bobina mi ha lasciato un po' interdetto. Prima, ripeto, ho trovato la spiegazione che è di un utente, no? Che l'ha comprata e si è lamentato che praticamente gli è andata in corto dopo 2 mesi di intemperie, però l'ha aperta e ha trovato questo, sembra l'anima, è presente il nastro isolante, il cilindretto in cartone, l'anima del nastro isolante, e lì il filettino avvolto e poi questo termorestringente rosso, quello che hai visto in foto. Messaggio? Oh yeah. Vabbè, va. Mamma mia come sto, come dice Claudio. Dai, oggi sia Marco, Natalino e Giulio, credo, a Porto Torres da Claudio Nevada, arrivavano tutti 8. Kappa. È un buon segnale, dai. Oia. Cosa volevo dire? Aspetta che sto... Sento, vado a leggere un messaggio, avanti Margot. Ehi, mamma mia che caldo, mi sono dovuto togliere la maglietta che c'ho caldo anche con la maglietta. Se avessi dato da soffrire, mi sa che mi mangio un gelato, altro che caffè, un gelato. Se avessi avuto il gelato al caffè sarebbe stato ancora meglio, ma non ce l'ho. E Natalino non è più rientrato. Vediamo se Natalino l'ascolto. Natalino sì. No, vabbè, dai. E magari sta facendo altro, sta studiandomi, e poi lo interrogo. Oh, yeah. Quindi vado Marco, cosa dici? Vado? Vadi, è un esperimento sociale che abbiamo fatto. Oia, Gianni, ci sei ancora? Sì, ci sono. Guarda, abbiamo fatto l'esperimento con Marco, oggi ho montato la Venom, però la mezz'onda, l'ho montata verso l'una, e niente, dai, avevamo questo piccolo esperimento da fare. Non ti ha preso la 5 ottavi? No, l'antenna non è la mia, ce l'ho in rodaggio, dai. Ah, in prestito, ho capito. No, prenditi la 5 ottavi, se vi consiglio, non prendere mezz'ora, prendi la 5 ottavi direttamente. Oh già, adesso ti spiego. Allora, io ho voluto prenderla per il prezzo esiguo che ha, mi pare era 43 euro più, vabbè, la spedizione 10 euro. L'ho voluto prendere per il QTH campagna, usi futuri eccetera eccetera, antenne di scorta, l'ho voluto prendere perché c'avevo il tarlo di questo almeno, però nota bene, io il sito lo vendeva, era scritto espressamente senza radiali, mezz'onda senza radiali, e io ho scritto mi raccomando che sia la versione mezz'onda senza radiali, arriva l'antenna come è arrivata ovviamente con i radiali, che li puoi togliere, sempre mezz'onda rimane, però io avevo fatto una richiesta, la richiesta è stata puntualmente ignorata, l'importante è una volta che hai pagato ti mandano quello che c'hanno, capito già? E ho detto, siccome tanto io qua non posso togliere la mia antenna e mettere quella, e sarebbe una tribolazione troppo grande, perché l'installazione mia è praticamente definitiva, finché non cade a pezzi non la cambio, e ho detto vediamo se Gianni può fare la prova, visto che la deve prendere. e l'ha piazzata però su un palo che forse le antenne sono pari a livello di punta, non di base, cioè più bassa, è un po' più bassa della, del quarto d'onda, capito, come base, il palo è più basso in poche parole. Vai profeta. E niente, quindi l'ho piazzata stamattina già, e giusto, e niente, siamo qua che stiamo cercando di fare delle verifiche per vedere sostanzialmente quali sono queste piccole differenze, dai. Il tuo smitter è avaro, quindi io ti chiedo, poi siamo in linea d'aria, siamo molto vicini, quindi non fa testo. Qua io lo so che è avaro, però so perché confrontato con lo smitter che funziona bene, qua ti da 9,5 e sono 9,15 che stai arrivando. E prima com'era grosso modo col quarto d'onda? Ma più o meno mi pare lo stesso segnale. Sì, allora Gianni, quella storia del disossidamento di antenne, di PL, no, non era vera. Volevamo vedere solo che se qualcuno si accorgeva della differenza, non essendo influenzato, dicendo che era una mezz'onda, capito? Ho detto, senza dire nulla, mettila, vediamo se qualcuno si accorge di qualcosa. Allora, qui da me, Gianni, tutto attenuato, quando a 4 watt arriva a Santiago 3, con questi 8 watt circa arriva a Santiago 4, identico, uguale al quarto d'onda, uguale, non ha variato assolutamente, sia con un baracchino a 4 watt che con quello da 8, il segnale è medesimo. Credo che le antenne siano parità di altezza a livello di punta, non di base. Ma quella che sta usando Gianni, la Veno, è sempre un quarto d'onda, non è 5 ottavi, confermo. No, è una mezz'onda già, 5 metri e 30, dai. Radialini corti, da 30 centimetri. Ah, ecco, ho capito, siccome quella di Franco, però quella di Franco è 5 ottavi. E risulta 50 centimetri più lunga, è quella la differenza sostanziale. Vabbè, comunque vedi tu già, queste prove qua, se ti hanno soddisfatto o no, vedi tu se cambiarla. Ma no, la montare già è leggera, dai, ho fatto abbastanza in fretta, niente di così impegnativo, dai, già si fa montare facilmente. Poi già, come hai detto tu, come a Franco, tipo va sul 48 1,1, va sull'80 1,1, sul 20 1,1, tutto, non ha stazionaria questa antenna, è un carico fittizio. Sì, non ne ha stazionaria. E beh? Già, ti è sparita la radio, ho capito solo, non è stazionaria e poi il nulla. Sì, forse ho prenotato male. Ho detto che praticamente quella radio, quell'antenna lì ci puoi caricare anche watt. È stata usata anche con 300 watt, va benissimo, non distorce niente, tutto quanto bene di lusso. E quindi già, cioè se proprio devi cambiare dal quarto d'onda metti la 5 ottavi. Naturalmente devi fare, è una rogna impermeabilizzare dove sono le fascette, perché sono molto sporgenti, basta che ti rimanga una fessura di mezzo millimetro, come è successo a me con la Ringo, era entrata acqua, c'era di tutto, c'era ossido, ruggine della fascetta, mucillagine, un disastro qua. Lo so, adesso Marco vediamo, dai, vediamo un po', la lasciamo su qualche altro giorno, magari vediamo più o meno con altri feedback, tipo Franco da Source, Eugenio, altra gente, se entra cosa, Claudio da Muros, boh, vediamo un po' se ne vale la candela, dai, se no mi ripiazzo l'altra, mi tengo ghissa e sono un signore. Sì, infatti, via. Adesso vabbè, magari il giudizio potrebbe essere influenzato, se qualcuno sta ascoltando poi entrerà, dice magari mezz'onda, si illude che sia magari in più o in meno il segnale, non lo so, tutto è possibile, era meglio agire nel silenzio, capito? Mi assento un attimo. E io già, e anch'io fra poco ho la vescica zampogna, fra un po' vado in bagno. Vabbè, comunque quello che mi piace è che almeno è tutto elemento radiante. Cioè, mentre il quarto d'onda c'hai 2,75 più questo radiale che è passivo, nella mezz'onda è tutto l'elemento radiante. Non c'è cose che non servono, capito? Non so che dirti. La lasciamo un paio di giorni, dovete montate poi vediamo. Insomma, il battesimo dell'aria è stato fatto, poi ci vuole il battesimo dell'acqua e vediamo cosa ne esce. Ma non ci voglio pensare qua. Cosa volevo dire? Niente di che, adesso magari ne approfitto e gli do una pulita all'altra, che ho visto che era abbastanza opaca, gli do una bella sgrassata, senza soffinare troppo, giusto per levargli un po' di sporcizia. Sì, con lo smog è una cosa folle. Io mi ricordo già nella mia, dove c'era quel tubicino trasparente, dopo poche settimane, non nemmeno quelle settimane, già sembrava nera. Io non ho messo grasso, non ho messo vaseline, porcherie che poi si appiccica tutto. No, era nera dallo smog, la bobinetta trasparente, il copribobina, diciamo, in plastica. Figurati lì che ho sentito anche che l'altro giorno ti stavi lamentando che rimangono questi pullman col motore acceso, quindi figurati tutto il particolato che buttano fuori e per far girare il climatizzatore. Sì, vai, poi la stazione, anche se non ci sono le litorine di un tempo, che si facevano un bel fumo, e quindi dai, c'è anche quello. Sì, infatti, ne stai parlando, mi pare giusto ieri o l'altro ieri, che rimangono lì con questi motori accesi, a far casino, a fare odore, e non si dovrebbe, infatti non si può lasciare il veicolo acceso, poi col diesel lì, un fiaggo, a far girare il clima. Va bene, aspetto che rientri Gianni e poi vado al gabinetto anch'io e magari faccio una pausa a gelato. Comunque sta entrando poca gente, mi hai notato, beh, poca gente, chi può sta andando in campagna, al mare, in ogni luogo, qua, vabbè, io non puede. Ciao, ti porto io a Sorso. Ah, Antonello Motopompa, che smitterai? Come che lo sto usando? Dai un controllo al profeta, portante muta magari. Scusate, avevo una bassa in corso, non so chi è entrato, boh, facciamo un po' di muto, dai. 9:10. E il profeta solitamente era così? Adesso mi sembra che era così, se non mi ricordo male, con la boomerang. Cioè all'incirca quasi ci siamo? Mi sembra che era 9:10, lo stesso. Perché cambia tanto una... Sì, sto attestando una Venom mezz'onda. Bisogna che sento piano, a distanza bisogna che faccia. Ma in città non è che si noti molto la situazione. Provare fuori, cioè, provare se c'è qualcuno, magari esce forte, vabbè, da lì esce forte per forte, se c'è di fronte, nella zona di Alghero, eccetera, eccetera. Antonio, ciao, buonasera. No, vabbè, stasera stavamo parlando con Claudio Nefada di Porto Torres, che lì abita vicino al faro, e niente, sia io, Marco che Natalino eravamo tutti 8 pieno, dai, quindi dovrebbe andare bene. Chiaramente in città le grosse esperienze non si avvertono, e ciccia. Comunque adesso in questo momento c'è la Venom mezz'onda montata sul palo. Sta scendo bene per lo meno, una bella radio, quindi se ti ascolta sempre a volte, no, l'altro motore si vede bellissima voglia. Lui va bene. Passo solamente al vero, se avete qualcuno al vero, se lo senti. Quando è al limite, se Carlo dovesse entrare, provo a accompagnarlo fin dove non riuscivo a accompagnarlo prima. È probabile, anche quello è un test da fare. Adesso vediamo. la teniamo su qualche giorno e poi vediamo cosa fare, dai. Avanti Marco. Sì, poi allora, rispetto all'Assirio o tante altre marche che ti fanno vedere anche il lobo di irradiazione dell'antenna, quella non sai nemmeno come sta irradiando, sta mezz'onda con questi radialini, capito? Se sta sparando normale, se sta sparando troppo alto, se sta sparando basso, troppo basso, non si sa, è tutta l'incognita. C'è questo foglietto di spiegazioni, ovviamente in inglese, no? Che dice niente, stringe le fascette, stringe le viti, montata l'antenna, ecco, il sunto è quello. Sì, il radio più lungo ce l'abbia 27 anni. Sì, molto più lunghi, come questi, 1,30 m. Però ricordati che la mezz'onda radiale non ne dovrebbe avere. Quelli li hanno messi per contentino, per fare cingomma, per... com'è che si dice già? Per... come dire, quando vuoi ampliare il tuo catalogo di prodotti, no? Tanto la gente compra di tutto poi. Oh già. Chi è, chi è? Sempre Claudio con Galaxy. Allora, ho voluto fare questa prova perché il Galaxy è un po' più sordo. Allora, col Galaxy mi arrivavi 8, ma lo ricordo perfettamente. 8 mi arrivavi col Galaxy. Adesso sì, 9 è pieno, quindi hai aumentato parecchio. Bene, bene, mancava questa conferma qua, dai. Claudio, ma tu stavi seguendo il discorso, l'inghippo l'hai capito, sì, che Gianni non ha pulito PL antenna, sta testando una Venom al posto del quarto d'onda, e sono, credo, di lunghezza, parità di punta però, cioè sia la mezz'onda sia la quarto d'onda sono alla stessa altezza di punta, come altezza, capito? Cioè il quarto d'onda l'ha tirato giù, ci ha messo la mezz'onda, però un po' più bassa. Sì, sì, certo. Sì, capito, li stavo seguendo poco fa, però i chiappari sono talmente precisi, non vedo la differenza, il Galaxy è un po' più sordo, io mi ricordo che arrivava a 8, adesso sei 9, ti arrivano esattamente quanto sta arrivando Marco, né più né meno, siete lì, capito? Quindi per me va bene quell'antenna. Ok, dai, un altro feedback positivo. Quindi 5 ottavi è ancora meglio, no Claudio? 5 ottavi, a me Franco California con quella 5 ottavi mi arriva quanto la Mantova. Stesso segnale che aveva prima, non ha cambiato niente, hai capito? 5 ottavi è una camionata con l'antenna, però questo 4 d'onda funziona bene, sicuramente è meglio che la bomba, perché è qua segnale del Galaxy, era 8, adesso è 9 pieno, 9 fisso, senza picchi, senza niente. Capito? Volevo appunto, mi ricordavo questo particolare, te l'ho voluto dire, tutto qua. Bene, bene, grazie, ciao. Ok, dai. E niente, prima di fare un determinato passo, due o tre controllini già non guastano. Certo non guastano, no, però vedi già questa operazione che ti ha fatto provare Marco questa antenna, già i risultati sono ottimali. Poi, chiaramente, con 10 euro in più, 20 euro in più, siamo attivati nel ricco nel povero, ti prendi la 5 ottavi, secondo me da lì sei quanto la Mantova, sicuramente, è un ottimo segnale perché già vai bene così, quindi non problema, capito? Va bene, dai, sono rientrato qua un attimino a prendere cose e riesco veramente che stanno andando via gli ospiti, così li saluto, si trovano dei coglioni. Eia, Claudio, guardati la foto dopo, della bobina della Venom. E inorridisci. Guardatela, come ha detto un utente che l'ha comprata, un tubicino di cartone con un filo sottilissimo avvolto. Guarda, dopo guardatela. Io la guardo, assoluto. E poi basta, poi me ne rientro. Dai, ci sentiamo dopo semmai. Avanti Antonio. Ehi, ciao, mi hai sentito? Ci diamo una parola, ok, già va bene. Se Gianni si mette la 5 ottavi cambia tutto lì, capito? Cambia tutte le cose, che non ne ho, se no gli avrei regalata almeno una 27 stelle, se l'avevo avuto, l'avevo regalata qualcosa, solo la berghiera, ma la metà che c'era. Non gli ho neanche chiesto che fine abbia fatto a fare. E non gliene chiedo nemmeno, ma frega nulla. Certo, per quello che costano, possono pagare 60 euro su internet. Vabbè, 27 euro va benissimo, ce l'ha Marco. E grazie a Dio non ho mai dato problemi. Cioè, l'unica cosa che bisogna fare è sigillarla bene, e appena dura, dura parecchio. Ragazzi, io vi devo assentare, devo a fare della roba, ci aggiorniamo dopo, ok? Via, d'accordo, ci siamo dopo, ciao Gianni, ciao avanti Marco. Ciao Gianni, a dopo, se capiterà anch'io fra un po' stacco. Vediamo se è entrato il doppio room. No, Gianni non c'è, evidentemente è qua, al mare sarà. No, doppio room, era qua, poi è dovuto si è assentato un attimo. No, pensavo che fosse magari in macchina per tavola, roba del genere, ho capo che c'è fuori. Io che caldo, mi viene caldo anche a parlare, Antone, se credi, sono pantaloncini, petto nudo, appena di ventilatore da soffitto, però anche a caldare mi accaldo, anche a parlare mi accaldo. È tipo cantante, no? Quando cantano, sudano, come maglia elettrica, prima di cantare già lo sai cosa usano loro, devono per forza fare come fa cosa. Se deve bere quasi una bottiglia di whisky, se no gli viene il panico, gli viene. Sì, io, meno male che oggi c'è calma, c'è lo squelcio al minimo, tanto a levare quel soffio di fondo, però almeno non c'hai questi tedeschi rompi in FM. Di notte, guarda, un incubo, se tu hai ascoltato fino a notte tardi, tedeschi 9.5, uno addirittura in un passaggio è arrivato a 9.10, 9.10 che da me è moltissimo. No, sono andato qualcosa con Giovanna ieri notte, l'anico sono andato, sono venuto un paio di birrette che ero lì, abbiamo fatto un giro perché abbiamo cenato lì a casa di Giovanna, la pizza. Ha fatto mangiando la pizza a casa, andando poi tempo di 5-6 minuti andare direttamente in bagno a casa. E la stessa cosa ha fatto a mio fratello, precisa. Noi siamo rifatti, Alicco ha telefonato. Antonello, quando vieni che ti ho bevuto la birra, sali qui a casa che mi sono cagato addosso. Cazzo, aiutati, ci vuole la pocera. Sì, cavolo. Vabbè, è così un periodo, tutti nella stessa barca siamo, me. Non tutti, dai. Ma mia favela me l'ha fatto, boh. Lui c'era questi funghi, non ho capito se erano i funghi oppure il resto, che era piccante la pizza. L'ho presa qua da Oggiano, ha proprio assaggiato il petto, stava affogando, stavo. Ha detto, che cazzo ci ha messo? Che terone qui in mezzo. C'erano i funghi che erano quelli grandi. Ho mangiato quasi tutta, la verità. Mi ho lasciato un pochettino, piccolina, basta. Un attimino che bevo. Sto sempre bevendo acqua, comunque è buono idratarsi, soprattutto in estate. Acqua però, non birra. Io la mattina mi faccio la tisana con limone, poi limone e poi un'altra cosa che non mi ricordo cosa diavolo era, e poi paprika c'è in mezzo e ti fa pisciare, cazzo, non si vede che ogni 4 ore 20 minuti devi andare in bagno a pisciare. Ecco, a proposito di birra, sai quella volevo prendere? Quella leggera, a limone, tipo Radler. E quelle di Lidl mi va bene, Lidl e lo Spin, basta, ecco, tipo. Quella veramente, quando è fresca, la bevo, è veramente buona, sembra gassosa, sembra. Quella mi sto comprando io, quella verde non la sopporto più, sembra tardita. Quando bevi una mattina o due incomincia già a pigliarti male, hai capito? Ti rende strano, ti rende, quindi non ne sto più pigliando quella roba lì, l'unica cosa che bevo mi inchinusa, quando esco con Giovanna al circo, e poi quando sono qua a casa mi compro una Radler, che la rivista è leggera, leggera, c'è il timone che è alcol in mezzo, e fa anche bene, perché ti fa la diuretico, vai in bagno immediatamente, se ti fili tre bevi due, non sai se per attirarti la sera come ti fa, ehi, se non ti muovi te la fai addosso. Io, c'è questa ventola forte, no? Va Natalì, Antonè. A proposito, io che mi sono ordinato per curiosità quegli alimentatori switching, quelli da specialette, quelli piatti. Allora, lo stesso venditore che dava il 50 ampere, dove tutti i cibi l'hanno comprato, è uscita una versione nuova 80 ampere, perché tanto poi tutti non li dà, lo sai, se dice 50 magari te ne dà 30-40. Ho preso quello 80 ampere, costava 3-4 euro in più, ho preso quello lì. Vediamo cosa c'esce. Usi futuri, No, futuro va bene, io sono quello, ho preso direttamente a fianco a la muraglia. C'era 20, da 30, addirittura anche da 40 c'era. Io non si doveva essere, quando ne ho 20. Perfetto, mi dava pilota bene questo apparecchio qua, non si spegne né display né nulla. Se lo metto a manetta la testa senti qualcosa, il bat, salgo a 100, non succede nulla. Posso andare anche tranquillamente in banda laterale, in FM, no, non mi delusia, già vendono come alimentatore. Capito? Io due, uno c'ho riscatolato, c'ho la scatola, c'ho riscatolato all'interno, e l'ho preso di riserva più che altro, così ce l'ho, è nuovo, c'è la scatola, le istruzioni, c'è sono vari tipi e vari modelli, e c'è addirittura 24 volts, c'è l'altro da 12 volts 8 ampere, da 12 volts 4 ampere, che è molto più fine di quello lì. Quello andrebbe bene, vedi, quando ti vuoi costruire qualche alimentatore per farti qualche riparazione, qualche stereo, 2 ampere e mezzo, usi quello e gli metti il trim, e c'hai il trim e l'uscita, te lo vedi dove fa, da 12 volt si scende a 3 e ti fa un strumento dell'alimentatore da laboratorio, in pratica, è perfetto. Rientrato! Ciao Gianni, ben rientrato! Ciao Ali, solo tu sei entrato dei nuovi o c'è qualcun altro? No, solo io sono entrato e basta. Marco è andato a fare la pupù, è andato a fare e torna subito. No, Gianni, pipì, va lascio in bagno. Era rientrato anche Claudio e vado in bagno, là, vi lascio un attimino. Io stavo andando a scoprirmi qualcosa che vuoi fare. Hai fatto bene. Allora, il mio alimentatore si chiama Universo, scheda tecnica, grazie, ti prego di leggere, finalmente c'è l'accesso. Sì, devo vedere che fa, 8 ampere, 6 ampere, 2 ampere e mezzo, c'è 50 watt, va bene, c'è anche la misura 200 mm per 62 per 33, pesa 250 grammi, ridurati, e c'è anche il codice. Poi dietro c'è diversi modelli, c'è addirittura 24 volts, a 12, se c'è qualche di meno, i lineari di camion non fai altro che comprartelo e gli allaganci. C'è 24 volts, 10 ampere, e poi ce n'è un altro da 30, se non mi ricordo male. E poi sono tutti gli altri, sono tutti da 12, di quelli cinesi. E quanto è distribuito, si è fatto a Napoli addirittura, via Emanuele Gianluco 23, 80, 142 Napoli, città di Taiva, eccetera, eccetera, quindi vedi la cosa che vedo, i cinesi sono tutti, tutta la bella palestrana, questo scuola lì. Si sente un casino adesso del sottofondo, non ce ne comprendi nulla, forse c'è macello a casa tua, non lo so. Ci si vuole che il televisore acceso, aspetta che metto un microfono normale, 2 minuti. Si sente più la voce, ti copro, non si capisce cosa dice. Adesso sono con il microfono normale. Adesso sei un bijou. Ehi. Yeah. si sentono ma in sottofondo, invece prima ti coprivano proprio, ti coprivano la modulazione tua. Capo. È sensibile alle mie 25. Io ho parlato la capsula, quindi è per quello che prende tutto. Chi c'è, il figlio di Giovanna? Ho detto chi c'è, il figlio di Giovanna a casa tua? No, c'è la figlia io qua. Stavo venendo questa camera qua, ecco perché mi va male quando non c'è noi entro a barattino. Ah, sai che mi sta chiamando qualcuno? 2 minuti. Com'è la situazione? Com'è? Ma non c'è un bravo fusciacca. Oh, yeah. Come sta viaggiando? Sono qua un attimino. Eia. Adesso che noi prendiamo la bici, non so ora. Via. Altro cambio. Hola, canale 10, che all'ascolto cambio. Buongiorno popolo del Sud Italia. Aspetta, Marco, prova a parlare con questo che mi servì un po' di tempo qua, ma non tanto, che devo verificare una cosa. Cappa, attenzione Sud Italia si ascolti, il nord della Sardegna, la città di Sassari, io sto usando solo 3 watt dell'omologato, sono messo male, mi copi l'amico, avanti. Non mi copia più, il profeta sì. Affermativo. Ui, 3 watt, mando vai se il lineare non ce l'hai, anziché la banana, il lineare, mando vai se il lineare non ce l'hai. Più che una banana ci vuole una cassa di banane. vabbè, non te neanche top. Ui, vediamo Natalino cosa sta trafficando, vediamo, forse vuole risolvere, secondo me vuole risolvere quel ronzio leggero del microfono originale. Qua adesso stavo guardando il tuo segnale, Marco, sei sul più del 30. Ah ecco, in ricezione ero curioso, ma hai notato differenza attenuandomi, adesso però magari non ti ricordi come ero prima. Aspetta. Dimmi Natalino. 7 e mezzo, Santiago 7 e mezzo. Non è per qui, ma non è nemmeno orientato verso di me, credo, Che segnale molto ma molto attenuato, troppo. Guarda me Santiago 2, Natalino. Come 2? Ma attenuato? Era una buria. Era buffando. No, credo. Non lo so io mica cosa sta usando Natalino. Come l'ha direzionato, dove l'ha messo, ce l'ha messo sul frigo, ce l'ha messo sul tetto. E quindi già, queste sono le condizioni consuete di lavoro, cioè filtro che mi ruba 1 watt, quindi 3 watt utili. Sempre quelle, a meno che non cambi il baracchino. E tu eri, per i miei parametri, 9,25. Questa specie di smitter, dai. Qua tutto attenuato, sei Santiago 3. Ma 3 di proprio di strumento? 3 di strumento, l'avevo leggermente toccato tempo fa, per essere meno tirchio. Ok, 3 di strumento, ok. No, perché io quando ti dicevo, no, prima 3, poi con questa lo stesso 3, non 3 di strumento, Recante ti avevo spiegato come si leggeva, eri tra lo 0 e l'1, che corrisponde a Santiago 3 reale, ho controllato con altri 10 baracchini, Santiago 3 a tutti e quindi quello è un Santiago 3. Sì, e qua sei proprio sul 3, Marco, te l'ho detto, l'avevo toccato appena appena, per farlo un po' più reale, dai. E l'ho confrontato anche con l'Urano, se sono molto ma molto simili. Ce n'era solo uno secco, dei vari smitter ce n'è uno che è particolarmente secco e mi pare fosse il presidente di uno dei presidenti, c'era circa 9 segna posto, per dire, cioè, era secco un Santiago in meno. E poi ho letto sul manuale e dice il Santiago 9 corrisponde a 100 microvolt, ma non vedo perché. In HF 50 ohm, Santiago 9 deve essere 50 microvolt. Loro sono speciali, hanno fatto più secco, 100 microvolt, capito? Vabbè, già lo sai, siamo americani. Oh, perché siamo comunque, Natalino, io questo di Polo, fallo girare, sei sceso a Santiago 1 adesso. Natalino, sarà qualche di Polo multibando per i 40, però una volta che lo accordi, caschio, cioè da fondo scala a 7,5 mi sembra troppo attenuato. Persino se fosse anche direzionato non verso di me, mi sembra troppo l'attenuazione, vabbè, tutto è possibile poi. Robo, sempre sperimentando. Oh yeah. Ti ho mandato le foto, ho visto là, da fuori, dai. Dalla prospettiva della strada. Visto. C'è un bel colpo d'occhio, e pensa che l'avevi messa anche più bassa, se l'avessi messa in punta al palo, cioè com'era l'altra, mamma mia, un po' troppo alta. Guarda, adesso non mi ricordo quanto è alto quel palo, se è alto 2,5 metri o 2,75, l'altro è 4, quindi vedi tu la differenza, ci sono un metro e... un metro e 30 di differenza, più o meno. Quindi quella è montata 1,5 metri più in basso. Quanto hai detto? 1 metro o 1,5 metri? Allora, quel palo piccolo che sto usando adesso è da 2,75 credo, mentre l'altro, quello che stavo usando per la boomerang, è da 4 metri. Quindi sono 1,30 metri di differenza, più o meno. Quindi dunque rispetto alle condizioni del quarto d'onda tu adesso sei 1,5 metri più corto, però l'antenna è più lunga, e lunga il doppio, no, quasi il doppio, dai, vabbè, troppo difficile. Dai, 5,50 ci vogliono una decina di centimetri, 20 centimetri, dai, 2,75 per 2, più o meno siamo lì, sì, è un metro... un metro e qualcosa un po' più bassa rispetto alla boomerang. Sì, no, perché c'è questa diatriba anche tra radioamatori che dice no, l'antenna uno, praticamente uno le metteva sullo stesso palo, toglieva una e metteva l'altra. E dice io le antenne le controllo sullo stesso palo a parità di base però. No, cioè la base ha la stessa nel punto di innesto del palo. Qualcuno non era favorevole, diceva che bisognava misurare a parità di punta, della punta dell'antenna. Quindi se una era più lunga si abbassava un po' il palo e si faceva la punta del palo come se fosse pari all'altra. E due scuole di pensiero diversi. Alla fine tutti e nessuno ha ragione, tutti e nessuno hanno ragione. Ehi, ehi, vediamo se Natalino c'è ancora. Natali, Santiago 1. Anzi, adesso sei sceso ancora, no, sto scherzando. Però fare un passaggio. Ehi, dai, 9,10 più o meno, 9,15, dai, più o meno, buccia e tutto. Ripeto, qua 7,5, 7,5 modulato, quando abbaglia il cane sfiora anche 8. Natali, sto provando una mezz'onda, non ti sei accorto di niente, o ti ho girato lo smitter? Oh yeah. Vabbè, siamo attaccati, facciamo uno stenditoio tra la mia e la tua. E qua, un gatto che russa, beato lui, la gattina, tutte femmine sono poi. Sì. Noi facciamo bulutto con il radio, quella che dorme profumatamente, aspetta lì. È arrivato il 13 sotto calcio, a Sevesciocca, se mai mi dovessi reincarnare, un gatto domestico voglio... Ma io probabilmente ero già un gatto domestico, forse un ghiro addirittura. Grazie. Allora, per l'ora c'è una pacchia, magnani, riseri, dromeri, sono serviti riferiti, hanno praticamente la servizio a completo. Oh, yeah. E beh, come ho cambiato la musica. Bianco per me. Arrivo subito un attimino. Ehi. Gianni. Avanti. Guarda, ha cambiato la musica. Mi guarda. Ehi, ma voglia. Allora, con l'RF tutto chiuso, 6-9-10. Figurati. Restituiscimi il controllo. Chiudi tutto l'RF. Chiuso tutto? Alla. 1-2-3, 1-2-3. Prova microfono. Eh no, adesso sta arrivando Santiago 9. Arrivavi Santiago 8. Con l'RF tutto chiuso? Sì, sì. Ah, bene, bene, dai. Sto provando una mezz'onda della Venom, piazzata stamattina a pranzo. E il K. E gli sto facendo il rodaggio, non era mia. E funzionano bene quelle antenne. Aspetta, gira. C'è la Franco e c'è forte. Ehi, l'ho messa un metro più bassa rispetto alla boomerang per questa insicurezza. Vabbè, già regge il palo, non è un problema. E te credo. Poco fa c'era un po' di bordello, adesso si è abbassata di nuovo la propagation. Perché dovevo entrare io in orizzontale, magari mi sentivano, capite? Allora ci sono spaventati e ce ne sono andati. Si sono assuffiati, là. Oh, yeah. e 20, mi sono mangiato la pizza e adesso gioco a pollo. E anch'io ho mangiato. Ho fatto direttamente unito il pranzo e la cena, eh. A pranzo non c'è mai niente nuova e quindi adesso abbiamo recuperato al 95esimo. Già, stavo parlando con la 50, mi devi scusare ma non ho seguito. Non c'è problema, intanto era niente di così importante. KK. Una sciaguba è questa radio col microfono amplification. E spinge di più. Prima con l'altra antenna mi arrivava con la boomerang 8. Adesso mi arriva 9. Dai, anche se siamo troppo vicini. Però dai, è già un feedback positivo. No, con la. Natalì, ti ho mandato un messaggio su Telegram. Rieccomi qua. Puff, spariti tutti. Gianni, ci sei? Eia, siete spariti tutti, bubu. No, stavo parlando con la 50, te l'ho detto che mi stava dicendo cosa. Eia, ti ho mandato delle foto su Telegram. Ce l'ho spento il computer adesso. Le guardo domani, dai. Vabbè, non c'è problema, figurati. E cappa. Marco si è spostato. Oh, yeah. Si è andato a dare i croccantini ai gattini. Probabilmente sì. Oh, yeah. Che noia, che barba. Oi. Che barba, che noia. Ma non è entrato nessuno altro, voi due soli ci siete. Adesso sì, un'oretta fa c'era anche Antonello, Gianni, e poi basta, ha fatto un'incursione Claudio, lui da Freccia. Adesso siamo messi così. Gava gava. A dire la verità vorrei riuscire a farmi due passi, a sventiare un attimo, ma non so se uscirò o meno. Poi se tu vuoi ascoltare ti potevi fare un dipolo a V invertita e così con l'altro, con il dipolo ascoltavi, capito? Che è omnidirezionale. Ma non ci vado là. C'ho dall'altro baracchino c'ho l'antenna veicolare, capito? Non è come il dipolo omnidirezionale, lo metti sotto l'antenna, sembrano dei tiranti e invece è un dipolo a V invertita, capito? Mi a lui e me, abbagliando. E quando mai? Ha capito. Per ascoltare con l'altro apparecchio ti conveniva mettersi un dipolo e così non sta zinchivi pure auricolare. Ma è giusto per non lasciarla buttata qua in casa, l'ho attaccata. È che il cavo che le ho messo non è un cavo adatto, capito? Devo comprarlo, il cavo buono. Non l'accendo, cioè non vado in trasmissione con quel cavo, dai. E al limite quello lì lo passi al dipolo e invece di buttarlo e praticamente gli metti il cavo nuovo, l'antenna verticale, capito? Sì, io avendo già trovato la cassetta 55 a buon prezzo, quello lo uso per la calata principale. Poi l'altro cavo che c'ho nella veicolare ne rimuovo e uso la calata che sto usando adesso di RG58. Adesso cappuccio. Infatti, per il VX col dipolo ti conviene più che con la verticale. Ti conviene più col dipolo. Io usavo un dipolo a V invertita per la banda del canale 12, tanto per intenderci. Andavo lì e mi faceva beffa. Cioè, li ho fatti anche i collegamenti con la boomerang. Stasera sul canale 8 ho collegato Imola e Lugo di Romagna. Così è entrato così a gamba tesa, stavo facendo questo locale. Sono arrivato lì, dai. Mi ascoltavano bene. Ma se tu avessi avuto il dipolo ti ascoltavano meglio, perché con la propagazione il dipolo è, a parte che ascoltavi meglio tu, che è più silenzioso dell'antenna verticale o di qualsiasi altra cosa, col dipolo per il DX è di lusso. Lo so, aspetta che mi allontano un attimo. Cappa. Sono rientrato. Cappa. E Marco che fine ha fatto? Marco, ci sei ancora? Non è rientrato. No, si sei pasciuto. Si è inabissato Marco Combo. Oi. Adesso ci starebbe bene una bella birretta fresca, mi. Davvero. Con questo caldo ci vuole. Domani me ne faccio comprare un po' di bottiglie da mia moglie e me ne metto in frigo. Ma c'è altra roba accesa. Come? Oi. Mi sta calando la palpebra. Vabbè, allora ci sentiamo alle prossime, già, se te ne stai andando. Che ti cala la palpebra, mi sa che mi corico anch'io. Devo riuscire a farmi due passi, la mi sa che me ne rimango a casa, dai, intanto. La serata, mi sa che è già andata, dai. Vabbè, una tale, dai, anche io mi sposto alla radio. E niente, la lascio magari in stand-by, col volume un po' basso. Poi se entra qualcuno ci aggiorniamo, ok? Cappa, ciao Gianni. Anch'io farò così, dai. Andavex. Marco, se mi stai ascoltando, sto facendo QRT. Anche Gianni sta facendo QRT. Al limite ci sentiamo più tardi, se entra c'è qualcuno. Telefono. Meglio lunedì, guarda, almeno c'è tante commissioni da fare, da cose, mamma mia. A chi lo dici? Qua io mi sto consolando con una bella birretta fresca. Dopo la pizza ci sta bene. Dopo e anche durante. Bene, adesso che sei ancora più indeciso. Quindi cosa ne pensi? Totale, tiriamo il somme della giornata. Ma... dubbi ne avevo prima e qualche dubbio ce l'ho ancora, quindi boh, non...